Salvadanaio. Le 12:15 minuti di martedì 26 aprile, buongiorno da Roberta Pellegatta, bentrovati a un nuovo appuntamento con Salvadanaio. Come avete sentito poco fa nel giornale radio, l'argomento di oggi sono le cosiddette case fantasma. La scadenza è vicinissima, il 30 aprile, è giusto quindi dare tutte le indicazioni per regolarizzare questi fabbricati che ancora non sono dichiarati al catasto, evitando così costi, sanzioni, pagamenti arretrati e via dicendo. Perché appunto dopo la scadenza l'Agenzia del Territorio provvederà con un'operazione a tappeto ad individuare gli immobili irregolari, addebitando i costi agli inadempienti, applicando appunto le sanzioni. Vedremo dunque nel dettaglio perché conviene procedere alla dichiarazione al catasto e quanto si rischia invece non rispettando la scadenza, e lo faremo rispondendo ai vostri quesiti in diretta, quindi ai vostri casi personali, grazie alla presenza oggi al telefono di Angelo Busani, notaio, esperto del Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E poi di Saverio Fossati, collega del Sole 24 Ore, che pur appunto non essendo rotaio è espertissimo perché spesso ha scritto di case fantasma sulle pagine del quotidiano. Buongiorno anche a te. Buongiorno a tutti. Subito i numeri per gli interventi in diretta di chi ci ascolta, per gli interessati. Il numero per le telefonate è verde 800 24 00 24, poi c'è il numero per i messaggi, per gli sms, che è 349 238 6666. La nostra scheda. Mancano ormai pochissimi giorni allo scadere dei termini per la regolarizzazione degli immobili non ancora accatastati, le cosiddette case fantasma. La scadenza era stata prevista inizialmente per il 31 dicembre 2010, per essere poi spostata dal decreto mille proroghe al 31 marzo 2011 e infine ulteriormente prorogata al 30 aprile prossimo. Per chi allo scadere dei nuovi termini non avrà ancora provveduto alla regolarizzazione prevista, sarà applicata una rendita catastale presunta dall'Agenzia del Territorio e inoltre saranno aggiunte alle imposte dovute e non pagate delle sanzioni più il costo amministrativo e tecnico dello svolgimento della pratica. Come fare per stabilire in caso di dubbi se la propria abitazione sia abusiva o a norma? Il primo passo è quello di procurarsi la visura catastale dell'immobile, poi verificare presso gli sportelli comunali o alla stessa Agenzia del Territorio, anche sul web, se la casa figura o meno negli elenchi. Nel caso l'edificio risulti abusivo, ovvero non dichiarato, il proprietario deve dare mandato di iscrizione al catasto ad un tecnico abilitato e iscritto ad un albo professionale, come ad esempio ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi. Sembra tutto molto semplice, in realtà forse non lo è, per questo siamo qui oggi per rispondere alle vostre domande, ai vostri dubbi a riguardo su queste case fantasma che in Italia sono 2 milioni dopo gli accertamenti dell'Agenzia del Territorio, 1 milione è già stato regolarizzato, prima della scadenza si dovrebbe arrivare a 1 milione e 300 mila, dunque dovrebbero rimanere fantasma circa 700 mila immobili. Ecco, l'agenzia è abbastanza certa sui numeri, Saverio Fossati, perché la tecnologia è arrivata in aiuto con le cosiddette ortofoto? Sì, le ortofoto sono in realtà scusate, le foto che negli anni passati l'AGEA, l'Agenzia per l'Agevolazione in Agricoltura, di concerto con l'Agenzia del Territorio, ha scattato dall'aereo con un sistema che si chiama aerofotogrammetria. Sono state fatte delle foto molto dettagliate di tutta la penisola e queste foto sono state sovrapposte, naturalmente dopo averle ridotte in scala, alle mappe catastali vere e proprie attraverso un'operazione tutta informatizzata. Da lì è stato abbastanza facile vedere quali erano le differenze fra gli edifici della realtà, diciamo, gli edifici risultanti al catasto. Molto spesso c'erano delle differenze minime, nel senso che magari chi aveva fatto il disegno, presentato il progetto, aveva fatto un muro lievemente più storto, più dritto, ma in ben appunto almeno 2,5 milioni di particelle, cioè di terreni, di appezzamenti di terreni, risultavano delle cose che erano evidentemente fuori luogo. Dopodiché è stato chiarito che una parte di queste cose che non andavano bene in realtà non interessavano il catasto, perché erano probabilmente delle tettoie, quindi che non necessitavano di interventi di regolarizzazione, o delle piscine gonfiabili o cose del genere, dico così perché le foto erano veramente molto dettagliate, però sono rimaste comunque almeno 2 milioni, come stima generale, di unità immobiliari da regolarizzare, quindi magari come numero di edifici vero e proprio è lievemente di meno, perché in qualche edificio c'è anche più di un'unità immobiliare, più di un appartamento, però in pratica si trattava di mettere a norma questa massa incredibile di immobili. Già 1.300.000 sono state sistemate direttamente dai proprietari che erano stati raggiunti dagli avvisi dell'Agenzia del Territorio o che comunque si erano preoccupati di andare a vedere all'albo pretore del comune se la loro casa o sul web, se la loro particella, il loro pezzamento di terreno era interessata da questa grande operazione di controllo. Però ne rimangono ancora tantissime. E però rimane ancora qualche giorno, quindi la speranza che si regolarizzi ancora qualcosa c'è. Pochi giorni, il 2 maggio in realtà è la scadenza. Sì, la scadenza ufficiale è il 30 aprile, ma dato che appunto cade di sabato, la domenica è il 1 maggio, dopodiché la vera scadenza è effettivamente, si possono presentare queste regolarizzazioni fino al 2 maggio. Le devono presentare i tecnici abilitati, come diceva la scheda, direi di ecco, ma cosa sono in prevalenza questi fabbricati fantasma? Sono abitazioni? Sono capannoni? Sono cose di tutti i generi e sono sparse in tutta Italia, devo dire. Non è che come al solito solo nelle regioni del sud ci sia il 90% delle cose irregolari e nel nord no. In effetti è molto a macchia di leopardo. È vero che ci sono alcune province del sud che sono in testa con decine di migliaia di immobili fantasma, ma ci sono dei nuclei forti anche in Lombardia e in Veneto, tanto per dire. Sono prevalentemente immobili che sono fuori dalle città, perché costruire una cosa in città senza che il catastro venga a sapere è piuttosto difficile, quindi prevalentemente si concentrano in zone di campagna. Molto spesso sono abitazioni, ma sono anche capannoni, ricovero di attrezzi agricoli, stalle per gli animali, magari ormai abbandonate, in disuso, però cose che sono state costruite tante volte anche in modo abbastanza innocente, cioè nella convinzione che si potesse liberamente costruire in campagna, e invece molte volte hanno un altro grossissimo problema, oltre a quello della mancata regolarizzazione catastale, che è il problema edilizio. Molto spesso sono state costruite in violazione al piano urbanistico del comune in cui si trovano, e quindi questo è un altro discorso molto molto complicato, perché la regolarizzazione catastale non funziona dal punto di vista urbanistico, e dato che il catasto è tenuto a comunicare al comune in cui si trova l'immobile che è avvenuta la regolarizzazione, automaticamente chi si regolarizza col catasto poi dovrà fare i conti col comune. Certo. Ecco, avvocato Busani, perché conviene procedere con la regolarizzazione? Beh, conviene innanzitutto per un profilo di correttezza dei propri comportamenti rispetto alla legge del nostro Stato, conviene per un profilo di correttezza nei confronti di chi è stato corretto, e quindi è necessario che tutti siamo corretti se vogliamo vivere in una situazione, in uno Stato ordinato. Naturalmente. E infine conviene perché non cogliere questa opportunità significa assoggettarsi a sanzioni, assoggettarsi a costi, e significa anche avere insomma i fabbricati non commerciabili, perché sappiamo che dall'estate scorsa è in vigore nel nostro ordinamento una norma per effetto della quale i fabbricati scorrettamente accatastati non sono possibile oggetto di compravendita. Mi permetto di allargare il discorso dell'amico Saverio Fossati dicendo che queste foto dall'alto hanno fotografato i fabbricati che si sono allargati o i fabbricati che sono spuntati, ma non hanno certo fotografato le situazioni interne dei fabbricati. Queste sono da regolarizzare tanto quanto i fabbricati costruiti ex novo o tanto quanto i fabbricati che sono stati allargati senza una conseguente denuncia in catasto. Quindi non solo dobbiamo guardare a ciò che abbiamo realizzato nel nostro giardino o nel nostro appezzamento di terreno, non solo dobbiamo guardare al piano in più della casa, non solo dobbiamo guardare al fatto che abbiamo allargato la casa, quanto dobbiamo anche guardare al garage che è diventato negozio, all'appartamento che è diventato un ufficio, ma anche al bagno che abbiamo aggiunto in casa, per esempio? Bravissima, anche a queste cose, perché se oggi ci presentiamo a un contratto di compravendita avendo un appartamento con due bagni, ma avendolo comprato con un bagno solo, dove la planimetria porta disegnato un solo bagno e l'abbiamo realizzato nel frattempo, magari senza permesso comunale, senza denuncia in comune, ecco, quell'appartamento lì è difficile compravenderlo, anzi è impossibile, perché il rogito non si può fare a carte catastali irregolari. È già arrivato un messaggio con questa domanda: c'è in previsione qualche proroga ulteriore? Ma io, se devo rispondere io, sì, non faccio il profeta, ma direi che proprio di no, anzi, conoscendo la complessità delle carte da presentare, perché bisogna fare un'operazione sul catasto terreni per portare il terreno edificato al catasto fabbricati, bisogna fare un'operazione al catasto fabbricati di disegno del nuovo fabbricato, io voglio dire, chi oggi non ha le carte avanti, i lavori avanti, ma si svegliasse solo stamattina, ebbè, io credo che il 2 maggio sia una data difficile da rispettare ormai, per chi non ci ha proprio pensato fino ad ora. Occorre un geometra veramente rapido per riuscire a fare i lavori in questi pochissimi giorni che mancano alla scadenza. E se non ce la si fa, poi l'Agenzia del Territorio a partire dal 2 maggio individuerà i fabbricati non dichiarati ai quali Saverio Fossati attribuirà una rendita presunta. Questo, sono già stati mobilitati i geometri, perché l'Agenzia del Territorio da sola non ce la può fare con questi 700.000 unità immobiliari, quindi farà delle convenzioni, sta già stipulando degli accordi con gli ordini, con i collegi dei geometri a livello locale, perché questi geometri ricevono una specie di delega, per poter andare a verificare con in mano le ortofoto e le individuazioni fatte dal territorio almeno quanto sono alti questi immobili che vanno denunciati, perché ovviamente le ortofoto danno un'immagine dall'alto, quindi fanno vedere la differenza rispetto alla mappa catastale, ma dall'alto, quindi non possono chiarire quanto è alto l'edificio, e quindi se è alto un piano presumibilmente ci saranno dentro, non so, ipotizziamo 7 vani, ma se è alto 2 piani i vani medi diventano 14, e quindi cambia radicalmente la rendita catastale, perché è basata sui vani moltiplicati per la tariffa decimo di quel comune, di quella categoria e di quella classe. Quindi loro andranno in giro, faranno le foto, i geometri e i sensi tecnici del territorio, porteranno il tutto all'Agenzia del Territorio, la quale elaborerà una rendita presunta che verrà inviata, notificata ai proprietari, e a questo punto sarà tutto interesse dei proprietari fare immediatamente loro accatastamento per poter replicare, per non vedersi attribuire in via definitiva quella rendita presunta, che sarà sicuramente più elevata, quasi sempre più elevata di quella che spetterebbe. Quindi c'è anche un meccanismo proprio di dissuasione in tutta questa operazione piuttosto complessa. Le operazioni saranno messe a carico del proprietario, tutte queste operazioni di ispezione, insomma, che quindi costi alti, immagino, ma non altissimi. Abbiamo calcolato che dovrebbero essere intorno ai 1.300-1.500 euro il costo dell'operazione, poi però arriva la rendita e da quel momento si pagano le tasse. Ma il grosso problema è che non si pagano solo le tasse da quando arriva la rendita. Il problema è che nel momento in cui viene attribuita la rendita si presume che questa rendita esista già dal 2007, quindi il proprietario dovrà dimostrare che nel 2007 quella casa non c'era, il che sarà veramente molto ma molto difficile. Quindi ci sono tutti gli arretrati e relative sanzioni, e in qualche caso, se parliamo, non so, di una villetta media di una decina di vani catastali, si può arrivare tranquillamente a 20-30 mila euro di arretrati. Nel frattempo è arrivato un messaggio con scritto: cos'è un vano? Il vano è la definizione catastale di quello che noi potremmo chiamare una stanza, ma in realtà non è esattamente una stanza. Il catasto in ciascuna provincia, in ciascun comune, identifica quello che è il vano tipo. Comunque possiamo dire a grandissime linee, ma forse il notaio Busani lo può spiegare anche meglio di me, io ci provo brevemente, il vano è una stanza dove c'è almeno una finestra e che mediamente ha un'ampiezza, una metratura, questa sì molto variabile, fra i 12 e i 20 metri quadrati. Ci sono poi delle stanze che sono per noi delle stanze, ma che valgono di meno, come un bagno che vale un terzo di vano normalmente, la cucina che vale un terzo di vano, la cantina che vale un quarto divano e altre variabili. Va bene. Non si può paragonare con molta precisione. Il notaio Busani avrà modo di parlare a lungo nella seconda parte di Salvadanaio, perché stanno arrivando molte domande. Abbiamo in linea Maurizio dalla provincia di Monza e Brianza, Alessandro da Brescia, Enrico da Carbonia. Ci sono anche gli sms al 349-238-6666, invece il numero per le telefonate 800-24-0024. Le risposte tra poco, dopo la pubblicità e il meteo. Bentornati a Salvadanaio, ecco qua lo spot TV dell'Agenzia del Territorio, che abbiamo regalato un passaggio, con cui si vuole sensibilizzare i proprietari degli immobili cosiddetti fantasma a regolarizzare la loro posizione. In questo spot a cartoni animati si vedono diversi bianchi fantasmini lungo le strade, che poi si trasformano in case vere e proprie una volta che il proprietario è passato al catasto. Proprio di questo ci stiamo occupando oggi a Salvadanaio, delle procedure da seguire per regolarizzare gli edifici non dichiarati al catasto. La scadenza, come detto, è vicinissima, il 30 aprile, di fatto il 2 maggio, poi partiranno l'operazione a tappeto dell'Agenzia del Territorio, che individuerà i fabbricati non dichiarati ai quali attribuirà una rendita presunta con costo a carico degli inadempienti e una retrodatazione al 1 gennaio 2007, più le sanzioni, come spiegavano poco fa Saverio Fossati, collega del Sole 24 Ore, e il notaio Angelo Busani, che sono nostri ospiti oggi a Salvadanaio. 800 24 0024, numero gratuito per le vostre telefonate. Un saluto a Maurizio dalla provincia di Monza e Brianza. Buongiorno a voi, volevo chiedere questo. Noi abbiamo costruito un'abitazione che dovrebbe verrà utilizzata dai nostri figli in un futuro abbastanza lontano. Diciamo che siamo arrivati a costruire l'edificio per il 60%, dobbiamo fare ancora tutte le opere interne, quindi non abbiamo né allacciamento né acqua né fogna né gas né corrente. C'è in piedi questo immobile. Devo fare qualche cosa? Notaio Busani. No, assolutamente niente, perché i fabbricati in corso di costruzione non vanno rilevati in catasto in quanto non produttivi di reddito, e quindi il nostro ascoltatore non ha nulla da fare in questo momento. Andiamo a Brescia da Alessandro, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Anzitutto vi ringrazio, perché grazie a voi qualche mese fa sono stato, diciamo, allertato su questo problema, quindi ovviamente ho già regolarizzato un piccolo fabbricato ex rurale che, diciamo, adesso risulta come magazzino. La mia domanda è di natura fiscale: come devo comportarmi, diciamo, ai fini della dichiarazione dei redditi? Da quale giorno devo dichiarare la rendita? Notaio. Dal giorno in cui questo fabbricato esiste e non possedeva più i requisiti di ruralità. Ovviamente, retroagendo nel tempo, si arriva fino al giorno in cui le pretese del fisco si sono prescritte, e quindi si va indietro in sostanza di 5 dichiarazioni dei redditi. Ecco, Saverio Fossati ci diceva, il nostro ascoltatore, grazie a voi ho capito di questa emergenza, ho potuto regolarizzare il mio fabbricato. In realtà dicevi in apertura che l'Agenzia del Territorio ha provveduto, no, ad avvisare i potenziali inadempienti. Beh sì, solo che li ha avvisati con la fissione all'albo pretorio del comune dell'esistenza di quella particella di terreno su cui insiste il fabbricato rilevato, fra quelli appunto non risultanti in catasto. Quindi molta gente non è che è andata a guardarsi all'albo pretorio se c'era la propria particella. Più facilmente ha sentito sui giornali o in televisione o alla radio appunto che esistevano queste cose, è andato sul sito web del territorio www.agenziaterritorio.it, e lì c'è un elenco molto pratico diviso per comune con tutti i numeri di particelle interessati della faccenda. Probabilmente l'ha scoperto così. Ovviamente non l'avrà certo scoperto andandosi a guardare il pezzo di carta all'albo pretorio del comune. Sulla domanda che faceva prima, appunto, volevo precisare che in realtà tutti quelli che hanno fatto la regolarizzazione devono comunque pagarsi tutto il 2010, perché a meno che non abbiano dichiarato di avere ultimato l'immobile, ultimato dal punto di vista urbanistico l'immobile, nel corso del 2010, cioè il giorno prima di avere presentato la regolarizzazione in catasto, è presunto il fatto che l'immobile sia stato costruito comunque prima del 2007, quindi intanto pagano sul 2010 e l'ICI naturalmente del 2011 e purtroppo anche l'ICI arretrato del 2010, e si spera che non ci siano accertamenti, perché se ci saranno accertamenti diventerà molto molto difficile dimostrare che quella casa non c'era prima del 2010. 800 24 0024, numero verde di Radio 24, quello per i messaggi è 349 238 6666. Maurizio da Parma: chiedo se il discorso delle case fantasma è assoggettabile al cambio di destinazione d'uso, tra parentesi, superfettazione. Notaio Busani. Sicuramente sì, per tradurre la domanda per gli ascoltatori non espertissimi, per superfettazione significa aver allargato un fabbricato esistente, quindi o in altezza o in larghezza. Evidentemente allargando si crea una nuova unità immobiliare o si ampliano le unità immobiliari preesistenti, e quindi questo è uno dei casi classici di utilizzo di questa sanatoria. Arriva un messaggio ancora più specifico, un ascoltatore che non si firma dice: ho una camera da letto grande, ho realizzato con cartongesso uno sgabuzzino tra l'armadio e il muro, devo regolarizzare al catasto? Quindi in questo caso è uno sgabuzzino. È sempre il solito quartino divano, mi sa che bisogna in qualche modo segnalare per un piccolo aumento della renta catastale. Cosa dice il dottor Busani? Notaio, cosa dice? Uno sgabuzzino è da dichiarare? Ma allora, in teoria assolutamente sì, in pratica se il cartongesso è un qualcosa di smontabile facilmente e la riduzione allo stato pristino non è problematica, adesso io non voglio invitare nessuno all'evasione, ma il caso è veramente minimale. Piuttosto vorrei tornare su quanto diceva il dottor Fossati poco fa. Io nella mia esperienza professionale ho prove ripetute e rilevanti del fatto che queste ortofoto non siano esattamente precisissime, e quindi ho, così come sono stati rilevati come abusivi dei fabbricati perfettamente dichiarati, ci sono moltissimi casi di fabbricati abusivi che le ortofoto non hanno rilevato, intendo dire sono casi rilevabili dall'esterno, non il famoso sgabuzzino creato in camera che ovviamente una foto aerea non rileva. E soprattutto ho notizia di casi che pur abusivi non sono stati tradotti nei famosi elenchi, quelli affissi all'albo pretorio piuttosto che pubblicati su internet, quindi il rilievo da farsi secondo me è ovviamente chi è stato pubblicato come caso deve essere regolarizzato, ma attenzione che il fatto di non essere stati fotografati / pubblicati come dato su internet o negli albi pretori, questo non esime dal regolarizzare, perché questi casi sono frequentissimi e sono rilevanti tanto quanto quelli pubblicati. Andiamo a Carbonia da Enrico, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Grazie per l'opportunità. Io volevo fare questa domanda. Abbiamo un fabbricato rurale, che è un capannone agricolo, che non è stato accatastato e figura tra gli elenchi come Mappale, figura tra gli elenchi nel sito. Io volevo capire se rientrava all'interno di questa normativa, in quanto si parla di immobili in generale, però diciamo che non essendo un'abitazione, non essendo adibito a nessun tipo di abitazione, volevo capire un pochino se la normativa può riguardare anche lei in questo caso. Esatto, sì. Notaio Busani. La risposta è telegrafica, assolutamente sì. Allora le sottopongo subito un altro quesito che ci scrive Andrea da Alessandria. Una legnaia tutta aperta è da considerare un fabbricato? Una legnaia tutta aperta vuol dire che non c'è neanche la tettoia, quindi vuol dire che quando piove il legno si bagna e mettendolo nel camino poi non brucia. Oddio, forse il tetto c'è, non lo so. Andrea, ci chiami all'800 24 0024, no, ci fosse il tetto e fosse tutta aperta intorno. Al di là di questo, che per buttarla in ridere, sì. Ci sono dei piccoli manufatti, ecco, la legnaia composta di solo una tettoia e di limitate dimensioni, questi sono casi limite di non obbligo di accatastamento. Deve essere però proprio una tettoia che ripara la legna sottostante e deve essere di dimensioni veramente minime. in questo caso si può anche non accatastare. Entriamo sempre di più nel dettaglio con i nostri messaggi al 349-238-6666. Cinzia, a seguito degli accertamenti ci sono stati contestati come edifici degli essiccatoi per legname, che sono comunque macchinari. Abbiamo dovuto accatastarli, ma se poi li vendiamo, come è già successo, ci chiede Cinzia. Pronto? Il tema è che non so cos'è un essiccatoio per legname. Ecco, lo so che si andava sempre troppo più nel dettaglio. Gli essiccatoi per legname, se sono macchinari infissi al suolo e sono stabilmente destinati ad essere infissi al suolo, specialmente se si tratta di un fabbricato produttivo, come mi pare il caso specifico, quindi mi immagino un opificio che usi questi macchinari per il suo ciclo produttivo, ebbene l'accatastamento è dovuto perché tutti i macchinari infissi in uno stabilimento industriale concorrono alla produzione del reddito del fabbricato stesso. Faccio riferimento a un carro ponte, faccio riferimento a una pesa, faccio riferimento a una turbina di una centrale elettrica, problema sul quale ci sono state sentenze addirittura di Cassazione per l'ICI. Il tema è che un fabbricato industriale, un fabbricato artigianale, intanto vale in quanto abbia una dotazione di macchinari fissi e stabilmente incorporati nell'immobile, perché un fabbricato nudo di questi macchinari ha un valore, un fabbricato completato con questi macchinari ha un altro valore, quindi giusto accatastarli e giusto il fatto che la rendita catastale attribuita dal catasto ne tenga conto. 30 secondi solo ancora per dire che questa tipologia di fabbricati non ha una rendita attribuibile a tavolino, proprio perché la qualità e la quantità di questi macchinari deve essere stimata caso per caso in modo da dar luogo a una corretta rappresentazione del fabbricato stesso nel catasto. Saverio Fossati voleva aggiungere qualcosa, l'ho sentito? No, soltanto appunto che non c'è quindi problema di vendere una volta che attribuito la rendita catastale e che tutto collima, insomma, fra intestatari della partita e planimetria, l'immobile viene venduto e viene venduto a quel valore, ovviamente con i macchinari dentro. Sono poi i macchinari li togli, li smonti, va a chiedere una variazione della rendita catastale in meno, appunto, perché rimane solamente o una tettoia nuda con quattro pali, in questo caso non c'è neppure probabilmente la rendita catastale, come diceva prima Andrea Busani, oppure rimane un fabbricato vuoto, non più destinato a questo uso, e quindi ovviamente la rendita catastale è assai minore perché non c'è più l'impianto. Questo è cura del proprietario quando si troverà in questa situazione di adempiere a questa cosa. Piovono sms, telefonate, torniamo tra poco a rispondere ai vostri quesiti. 800 24 00 24 349 238 6666 per i messaggi e le informazioni sul traffico. Bentornati a Salva Danaio per questa puntata dedicata alle case fantasma e alle procedure per regolarizzarle, dichiararle al catasto. Due telefonate ci portano a Roma, la prima è quella di Angelo. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Salve, io volevo fare una domanda che esula un pochino dall'argomento, ma approfittavo della presenza dei due esperti. Volevo sapere qual è la normativa e le procedure quindi legislative per la realizzazione di un vano, quindi di una camera, di un aumento di cubatura di una casa su una porzione di terrazzo. Cioè la classica veranda? Esatto, la veranda, se ha poi la possibilità, se esiste una possibilità per farla diventare una reale camera, quindi un reale aumento di cubatura della casa, sostanzialmente dell'appartamento. Notaio Busani. Dunque, il tema va risolto analizzando la normativa regionale e comunale locale. Comunque, in linea di massima, chiudere un balcone e farlo diventare una veranda, cioè quindi aumentare la volumetria di un appartamento, normalmente richiede un permesso di costruire e conversamento di oneri concessori. Quindi è una pratica, tra l'altro, complicata dal fatto che se andiamo a chiudere un balcone in una zona edificata da tempo, non è difficile che gli strumenti urbanistici attuali abbiano una capacità volumetrica in quella zona inferiore a quella che esisteva quando l'edificio fu costruito, e quindi potrebbe anche darsi il caso che si tratti di un'operazione irrealizzabile perché la volumetria del lotto è già stata esaurita a suo tempo e oggi non è più disponibile. Ancora, se siamo in un condominio, ovviamente il chiudere un balcone significa alterare l'estetica della facciata e quindi mi pare abbastanza imprescindibile passare anche attraverso un permesso condominiale. Diana da Roma, buongiorno. Buongiorno, io ho ereditato un appartamento classificato catastalmente come abitazione. In realtà questo appartamento è stato diviso ed utilizzato da sempre come uso ufficio. Il problema è che a suo tempo mi sono informata presso il comune e mi hanno detto che non era possibile realizzare perché non aveva soffritto di un precedente condono. Ora, a parte il fatto che gli inquilini all'interno hanno provveduto direttamente nel tempo a effettuare delle modifiche, spostando pareti, creando magari un bagno, qualcosa. Ecco, mi pongo il problema nell'eventualità di una vendita, come procedere. Saverio Fossati. Purtroppo in questo caso non c'è molto da fare, perché si sovrappone il problema catastale a quello urbanistico, cioè mentre sarà comunque possibile comunicare in catasto le variazioni della destinazione d'uso, cioè da A4, da 3 abitazione, poniamo a 10 ufficio, e la modifica della planimetria interna con conseguenza variazione della unità catastale, anzi magari la creazione di più unità immobiliari al posto di una sola con varie rendite catastali, però in comune rimane il fatto che quel cambio di destinazione d'uso non era ammesso, cioè non è possibile, evidentemente si direbbe in quella zona, passare da abitazione a ufficio. Quindi siccome c'è questo intreccio che ho cercato di spiegare prima fra cose che si dichiarano in catasto e cose che invece vanno regolarizzate in comune, il secondo aspetto, quello comunale, non è sanabile in questo momento. Se il comune, piano urbanistico, prevede che lì non ci possono essere uffici, non ci potranno essere uffici neanche dopo che uno avrà fatto la regolarizzazione catastale, la quale costituirà anzi una sorta di autodenuncia. Saverio, ho un ascoltatore che non si firma, potenziale delatore, ci chiede via SMS: è possibile denunciare i vicini che hanno baracche non denunciate? Certamente, basta fare una segnalazione ai vigili urbani, la cosa più semplice del mondo per quanto riguarda l'aspetto edilizio, e una segnalazione all'agenzia del territorio per quanto riguarda l'aspetto catastale. Ricordo i numeri 800 24 00 24, invece per i messaggi 349 238 6666. Sentiamo Antonio da Napoli, pronto? Sì. Buongiorno. Buongiorno, mi sente? Sì. Niente, in realtà la mia domanda era questa. Io nel 2006 ho comprato un sottotetto non abitabile. Nel 2008 c'è stato, diciamo, un controllo da parte della Polizia Municipale e mi hanno apposto dei sigilli, quindi mi hanno sequestrato questo sottotetto non abitabile. Devo comunque provvedere a fare domanda di sanatoria al catasto, diciamo, variazione, oppure no? Per un sottotetto non abitabile sottoposto, sì, a sequestro. Esatto. Notaio Busani. Ma vorrei sapere se il sottotetto è una parte di una unità immobiliare più ampia o parliamo solo del tipo, è il piano di sopra di un appartamento? No, il piano di sopra di un appartamento è parte integrante dello stabile che ha costruito, diciamo, il... Non c'è da catastare nulla, perché quello è un vano non abitabile che come tale non è accatastato, o è accatastato come solaio, dipende dai casi. Il fatto del sequestro io non lo posso giudicare, non conoscendo la situazione, non conoscendo le carte, mi sembra un po' strano, perché sequestro vuol dire costruzione abusiva piuttosto che utilizzo abusivo della costruzione, ma comunque non entriamo in questo merito. Fatto sta che se il vano non è abitabile, non è correttamente abitabile, non deve essere nemmeno accatastato, ovviamente. Allora, ci diceva appunto il notaio Busani che la scadenza ormai è talmente vicina che chi, diciamo, si allerta adesso probabilmente non farà in tempo, e un ascoltatore ci dice: a quanto monta la sanzione e se dopo il 2 maggio comunque si continua ad accatastare volontariamente, cosa succede? Saverio Fossati. Allora, la sanzione appunto è legato a queste pratiche edilizie, la sanzione è minima, abbiamo visto che anche chi lo fa e chi, diciamo, aspetta a chiarire certamente della direzione del territorio andrà a spendere circa 1.500 euro fra sanzione per il ritardo dell'accatastamento e pratiche svolte dal geometra o dal tecnico del territorio. La sanzione per l'inadempienza nuda e cruda è semplicemente un migliaio di euro circa, quindi una cosa accettabilissima. Il problema sono le imposte arretrate, cioè dal momento in cui viene accatastato, dal momento in cui comincia a pagare ICI e IRPEF, no, a meno che non sia una prima casa, ma spesso non lo è. Ma il problema è che gli uffici fiscali, soprattutto l'Agenzia delle Entrate, cominceranno a risalire almeno al 2007, se non al 2006, chiedendo tutte le imposte che fino a quel momento non sono state pagate. Non sono state pagate ingiustamente, perché la casa esisteva già, era già abitata, già utilizzata come capannone o come negozio o come magazzino. Quindi sanzioni e interessi e imposte, IRPEF e ICI in 5 anni possono portare un conto di davvero a decine di migliaia di euro. È chiaro, ho davvero un minuto, credo che l'allargamento della porta del garage sia una cosa molto frequente, per questo sottopongo questo messaggio. Paolo da Treviso: ho allargato di 26 centimetri la porta del garage, devo dichiararlo? Notaio Busani. Ma io lascerei in pace questo va bene, sono 26 centimetri, voglio dire, esisteranno anche degli altri problemi più importanti. Francesco da Firenze, è velocissimo, sennò ci sfumano. Sì, buongiorno. Senta, una domanda. Si parlava prima delle sanzioni arretrate, diciamo quello che uno deve sopportare per ICE e per IRPEF. Se uno invece fa la dichiarazione, questi arretrati non sono più dovuti? In particolare riferimento alla situazione degli immobili rurali che l'Agenzia del Territorio non accatasta nelle categorie specifiche rurali, mentre il Comune chiede poi l'adempimento dell'ICI, anche se in realtà dovrebbero avere le caratteristiche rurali. La classica domanda articolata in chiusura. Notaio Busani, riesce a essere brevissimo? Abbiamo già risposto prima. Accatastando ovviamente bisogna pagare 2010-2011. Ovviamente molti proveranno a non pagare il passato, ma potrebbe anche darsi che l'Agenzia delle Entrate o i comuni per l'ICI rizzino le orecchie rispetto a questo accatastamento avvenuto nel 2011 e pretendano le imposte arretrate finché le pretese erariali non si siano prescritte. Quindi sicuramente l'accatastamento oggi genererà che per l'ICI 2011 l'accatastamento sarà rilevante, per l'IRPEF 2010 sul 2011 l'accatastamento è rilevante, dopo speriamo che nessuno faccia certamente. Grazie infinite al notaio Angelo Busani e al giornalista del Sole 24 Ore Saverio Fossati per essere stati con noi. Grazie a Marco Lombardo in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Mando un caro saluto a Deborah Rosciani, che domani tornerà alla conduzione di Salvadanaio. Grazie a voi per l'ascolto, una buona giornata da Roberta Pellegatta.